ritrovati e ben ritrovate alla Fuga del Gatto, domenica 10 maggio, fase 2, eh? Che bella questa fase 2, no? Quanto è diversa la vita dalla fase 1? Vabbè, dai, un po' sì, ma non ne parliamo, che poi mi viene il nervoso. Fuga del Gatto, Radio Wombat, ovviamente, come da qualche settimana a questa parte, continuiamo nella lettura dell'Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, lettura che avevamo interrotto domenica scorsa. Forse qualcuno o qualcuna se ne sarà accorto. Dai, voglio sperare che un po' di attenzione a questa trasmissione ci sia. Sì, in effetti ho zompato a più pari la puntata di domenica scorsa. Ero stanca, non ne avevo voglia, può capitare, perdonatemi, ma mi rifarò e ricomincerò, comincerò a rifarmi proprio da oggi, perché ho fatto due cose. Innanzitutto ho messo disponibile sul sito di Radio Wombat, ovviamente, che vi ricordo essere wombat.noblogs.org, il podcast della puntata scorsa, la puntata numero 6, che ahimè avevo sbagliato brutalmente, nel senso che in realtà penso di essermene accorta solo io, perché qualche ascoltatore mi ha detto che non si era sentito così tanto, ma in realtà l'audio, quando sono andata a riprenderlo, la registrazione era un po' orribile e super satura. Quindi, siccome sono una signorina perfettina, non è vero, faccio le cose a caso, però ecco, un po' meglio dello schifo totale mi piacerebbe farle, allora ho riregistrato di sana pianta la puntata numero 6, poi non dite che non vi voglio bene, e la potete trovare appunto tra i vari podcast del sito della radio, e potete riascoltarvela per non perdere il filo, perché altrimenti magari qualcuno era rimasto indietro e si sarebbe trovato con un bel buchetto, non sia mai. Però oggi invece ricominciamo, questa è la seconda cosa, ma quella più ovvia, perché ricominciamo le letture e siamo quindi a metà, più o meno, forse un po' di più, del capitolo 8, come ci dicevamo l'altra volta. Questa è la puntata numero 7, ma tutti questi numeri valgono un po' quel che valgono, quindi niente, ma eravamo rimasti appunto a questa ricerca dei nostri due protagonisti, Torri e Gentili, che stavano cercando disperatamente di trovare, di alambiccarsi per trovare un mecenate che avrebbe pagato questa mirabolante cifra di 300.000 lire per acquistare in blocco dai malefici salesiani la collezione di manoscritti musicali che era arrivata di Vivaldi, ma non solo di Vivaldi, come abbiamo visto nelle altre puntate, che era arrivata nelle mani di questi due meravigliosi studiosi. E insomma, si cercava un mecenate che avrebbe potuto comprare in maniera così filantropa e filantropica e generosa questa collezione, e l'avrebbe potuta donare alla Biblioteca Nazionale di Torino per renderla quindi finalmente pubblica e usufruibile e fruibile da tutti e da tutte. Qui eravamo e da qui ricominciamo. Chiaramente, come sempre, inframmezzerò queste letture a un bel po' di musica, musica ovviamente di Antonio Vivaldi, che vi dettaglierò meglio anche qui nel podcast completo, dove troverete scritto sempre sul sito nomi e dettagli dei brani musicali che vi farò ascoltare oggi. Quindi iniziamo. 6 febbraio 1927. Telegramma Commendator Isaia Levi. Circostanze costringonmi pregarla inviarmi cortesemente oggi sua decisione ed interpretare suo eventuale silenzio come negativa. Stop. Ringraziola a ogni modo. Stop. Gentili. Era passata una settimana e Torri si girò il foglio tra le mani senza capire bene, anche perché Gentili si era presentato alla sua porta senza farsi annunciare e gli aveva messo il foglio in mano prima ancora di dir buongiorno. E allora? Cosa ti ha risposto? Neanche una riga. Capisco che l'uomo è impegnato, capisco che non abbia compreso a fondo il valore di questa operazione, capisco che è un bottegaio attento solo al profitto. Calma Alberto, lascia perdere, chiudiamo questo capitolo, non ti ci arrabbiare. Io invece ti posso dare una buona notizia, il ministero non ha battuto ciglio, abbiamo il vincolo e il nulla osta per mantenere la collezione qui da noi. È una bella notizia, sono contento. Anzi no, via, non riesco a essere contento. E perché, scusa? Ma come perché? Perché adesso che abbiamo l'obbligo di trovare i soldi e i nostri mecenati fuggono come lepri. Beh, in effetti sono innanzi anch'io. Ma che dobbiamo fare? E pensare che la reazione violenta di Monsignore Emanuele se l'è beccata al povero Faustino, e meno male che c'era lui, e solamente con la sua infinita pazienza è riuscito a rabbonirlo e a farlo aspettare, con la promessa che gli stiamo trovando l'acquirente e che la cosa è pressoché fatta, mentre invece non è fatta per niente. Il tono di Torri si stava alzando in un crescendo rossiniano. E se non troviamo nessuno, che si fa? Si chiede al ministero che tolga il vincolo? Ma certo, lega slega, che ci vuole? E poi si torna in mano e gli si dice: abbiate pazienza, monsignore, abbiamo scherzato. Tenetevi pure i vostri manoscritti e ricontattate i vostri acquirenti. Arrivederci, grazie. Così il giorno dopo siamo su tutti i giornali e io in mezzo alla strada. Dai, Luigi, adesso sei tu ad essere nervoso, calmati. Ma dimmi tu perché diavolo ci siamo voluti cacciare in questo guaio? L'arte, la musica, il bello. Siamo due scemi, ecco cosa siamo. Su questo non c'è dubbio, concordo perfettamente. Però adesso bisogna uscirne, e nel migliore dei modi. Io non mi do per vinto nella ricerca di un compratore. Sì, d'accordo. Ma bisogna che questo compratore sia un altro scemo accecato dall'arte come noi. Oppure un pazzo mistico che voglia offrire tutto come ex voto per grazia ricevuta. Fermo! Ho trovato! Ecco il motivo in più! La grazia ricevuta. Balbettò Torri, fissando Gentili come il boscaiolo guardò Orlando fuor di senno. Qualcosa di simile. Ho trovato la persona giusta. Ti ricordi quel mio conoscente, quello che l'anno scorso perse il bambino? No, non me ne hai mai parlato. Perché ha portato un ex voto alla Madonna? Fece Torri, continuando a non capire niente. Ma che Madonna? È ebreo come me. Voglio provare a passare subito da lui. Ci vediamo presto, ti faccio sapere. E sparì dalla porta, lasciando Torri in piedi, dietro alla scrivania, col sigaro tra le dita e gli occhi spalancati. Due giorni dopo, Gentili si presentò trafelato in biblioteca di buon mattino, fischiettando la cavalcata delle valchirie di Wagner. Schizzò al secondo piano, divorando le scale a due con una lettera in mano. Thank you. Torino, via Baretti 45, 15 febbraio 1927. Chiarissimo signor professor Luigi Torri, direttore della Biblioteca Nazionale di Torino. Mi permetto di offrire a codesta Biblioteca Nazionale la raccolta di opere antiche musicali, in testi manoscritti, in gran parte originali, e stampati, come risulta dall'elenco bibliografico che unisco. Detta raccolta, la cui esistenza fu constatata ed segnalata dalla signoria vostra illustrissima e dal professor Alberto Gentili, docente di storia della musica della nostra università, e della cui importanza storica e culturale fu dotto interprete lo stesso professor Gentili, desidererei fosse intestata alla memoria di Mauro Foà, piccolo fiore rapito al nostro amore. Desidero pure che dello studio di detta raccolta e delle relative eventuali pubblicazioni ai fini della sua valorizzazione e diffusione sia incaricato il professor Gentili. Confido che la biblioteca vorrà accettare così questo mio dono, fatto allo scopo di evitare che una raccolta tanto importante di perduti e in parte sconosciuti manoscritti e stampe musicali possa disperdersi e di contribuire ad accrescere il patrimonio della Biblioteca Nazionale di Torino, ai fini della maggior cultura e degli studi più alti. Con distinto ossequio, di lei devotissimo, Roberto Foà. Ecco il motivo in più che mancava agli altri mecenati, la memoria di qualcuno, alla memoria di Mauro Foà. Ecco un modo per rendere eterna, o perlomeno molto più duratura, la memoria di un defunto. Vivaldi era morto da tanto tempo, la sua memoria si era persa, ma per un gioco strano del caso, le sue musiche uscivano adesso da secoli di silenzio per tramandare la memoria di un bambinetto, un piccolo fiore ignoto ai più. Suo padre Roberto aveva finalmente trovato il modo per compensare una parte di quel sopruso, per dare uno schiaffo alla morte. Poca cosa, tanto avrebbe trionfato lei di nuovo, ma intanto oggi era felice, così felice che non andò in ufficio, non ci andava solo quando era davvero malato. Prese Diodata e la portò a pranzo nel migliore ristorante di Torino, dove stapparono un Barolo del 1914 e brindarono a Mauro. Quel giorno anche Torri e Gentili andarono a pranzo insieme per festeggiare. Erano euforici. «Te lo dicevo che in qualche modo ce l'avremmo fatta», fece Gentili sornione, con lo sguardo di chi vuole il complimento. E Torri lo abbracciò, stringendolo e dandogli così forti pacche sulle spalle da fargli quasi male. Si ingolfarono d'agnolotti, poi di finanziera e infine di frittelle di castagne. Tornarono insieme all'ufficio di Torri, che erano rintontiti di contentezza e di cibo. «E ora scrivo subito al ministro. Vedrai come saranno lieti di accettare la donazione. Tremavano come foglie al pensare di dover sborsare anche una lira». La risposta non si fece attendere. Questo ministero ha preso atto col più vivo compiacimento di quanto la signoria vostra comunica circa il prezioso acquisto della collezione di rarità musicali, che sia per il prezioso valore degli autografi, sia per l'importanza intrinseca e il numero delle opere, sensibilmente arricchisce il patrimonio musicale bibliografico dello Stato. Il ministro fedele. Dopodiché scrisse a Foà, gettando la maschera burocratica tenuta fino a quel momento e dando libero sfogo alla sua indole sentimentale. Torino, 20 marzo 1927. All'illustrissimo signor Roberto Foà, via Baretti 45. Adempiuti gli stretti obblighi ufficiali che tenevano vincolato il mio spirito, finalmente posso aprire l'animo nell'esaltazione del maggiore obbligo personale verso di lei, che volle, insieme all'ottima signora sua, lasciare a questa biblioteca segno d'amore, nel più sacro degli affetti, con le insigne donazione della raccolta musicale che sarà intitolata al loro dilettissimo Mauro. Così la fugace piccola vita di lui, superando il fisico limite del tempo, sarà perpetuata nei secoli. Torri. Oh! Anche Monsignore Emanuele era felice. Ricevette direttamente da Foix la somma di 298.050 lire che spense come per incanto ogni impaziente risentimento. Cinguettò per telegrafo le seguenti parole: lietissimi, affare felicemente concluso. Ringrazio sentitamente Cavalier Torri, cui invio fervidissimi auguri. Emanuele. Dopodiché chiamò il suo segretario e gli ordinò di bruciare ogni lettera, ogni ricevuta e ogni traccia che potesse testimoniare le cure con cui i padri salesiani avevano accolto la preziosa collezione, rispettando la volontà del suo donatore e conservandola con amorevole zelo. L'affare, come l'aveva giustamente chiamato, era finito in gloria e ora ci si poteva dedicare con animo lieto all'ampliamento del collegio, ma soprattutto al completamento della necessaria chiesa del Santissimo Redentore, opera imprescindibile per tutti coloro che intendessero degnamente magnificare il nome del Cristo Re. Ora che i manoscritti erano salvi, era giunto il momento di metterli in ordine e di inventariarli. Fino a quel momento Gentili aveva esaminato le musiche contenute nei codici, più che altro allo scopo di farne una valutazione economica. Apri, chiudi, sposta, riponi. Un caos di volumi sparsi in giro per la saletta in cui erano rimasti dal primo giorno. In pratica nessuno, dopo il marchese Marcello Durazzo, aveva più visto la collezione ordinatamente esposta in libreria. Ma adesso i manoscritti potevano finalmente abbandonare quella collocazione provvisoria ed essere ospitati in un grande scaffale che era stato appositamente liberato in sala manoscritti e rari. Quel giorno, Torri e Gentili vollero officiare una cerimonia che attendevano da mesi, avere il gusto di riporre personalmente negli scaffali i codici che avevano tanto sospirato. Comincia tu, Alberto, è tuo l'onore. Bene, iniziamo dal primo tomo. Due inservienti della biblioteca avevano disposto tutti i volumi ritti per terra. Ciascun tomo aveva segnato sulla costola il numero d'ordine in cifre romane. Gli inservienti adocchiarono il primo e lo passarono a Gentili. Via col secondo. Gli inservienti girarono chini fra i volumi, guardarono e riguardarono. E infine nulla. Allora, questo secondo tomo? Perdoni, professore, ma qui non si trova. Abbiamo il terzo. Datemi il terzo, il secondo salterà fuori. Avanti col quarto. Altra ricerca, su e giù sulle costole dei volumi, nulla. Anche il quarto non c'è, professore. Torri si spazientì. Come sarebbe a dire che non c'è? Guardate meglio. Dopo un attimo, anche Gentili e Torri si ritrovarono chini per terra a cercare il secondo e il quarto volume. Avevano ragione gli inservienti. Non c'erano. Di colpo, compresero il sistema e cercarono anche il tomo 6, poi 8, poi 10, nulla. La collezione aveva solo numeri dispari, 1, 3, 5, 7 e così via. Gentili e Torri si guardarono sgomenti. Mancava la metà dei manoscritti. See Capitolo 9. Venezia. Sabato 20 maggio 1780. Quando comincia ad albeggiare, in quelle giornate nitide di primavera inoltrata, il cielo si stacca pian piano dalla laguna con cui era rimasto impastato durante la notte, e il canal Salso, per chi si imbarca da Mestre per Venezia, diventa subito una striscia di specchio che raccoglie ogni chiarore lontano e taglia in due i campi ancora intrisi dal nero della notte. La lingua d'acqua diventa allora sempre più lucente e pare allargarsi man mano che si avvicina alla laguna, ma è soltanto un effetto della luce che guadagna anche i campi e che rende tutto più largo e orizzontale. Sulla riva destra del canale, appena subito fuori da Mestre, un gran viavai di servi caricava bauli, sacchi e ceste su due piate. Accanto, l'ambasciatore delle loro maestà imperiali e reali, il conte Giacomo Durazzo, si accomodava dentro alla cabina del gondolone a quattro remi assieme al conte Girolamo Diedo, il gentiluomo che in villa teneva volentieri compagnia all'ambasciatore e in città teneva ancor più volentieri compagnia all'ambasciatrice quando si trovava da sola nel palchetto del teatro. Le barche dettero remo verso Venezia e solo quando furono vicine a uscire in laguna partì anche, più indietro di diverse leghe, la barca della contessa Ernestine Ungern von Beinwulf, divenuta signora Durazzo, nel 1750, una delle più belle donne di Vienna, ancora assai piacente, nonostante i suoi 48 anni, accompagnata dalle dame del suo seguito. Erano partite in ritardo perché Ernestino odiava svegliarsi così presto e pur di non darla vinta a Giacomo restò polemicamente a letto un'altra mezz'ora. Quando il gondolone uscì in laguna il sole era ormai alzato e lo si vedeva a perpendicolo proprio sopra Murano. La giornata si annunciava magnifica. Non vi nascondo, eccellenza, che la sola vista di Venezia e delle sue beghe rimpiango infinitamente i piaceri della villa, la bella e briosa compagnia e gli svaghi teatrali che abbiamo goduto del vostro casino di Mestre. E ho già nostalgia della vostra piccola Versaglia. Non lo dite a me, voi siete veneziano, mi dispiace parlare così della vostra patria, ma conoscete bene quanto abbia in uggia questa città morta e chiusa. Conosco anche quanto siano stolte e vane le lamentazioni di chi vive in provincia e sta sempre a detestare la piccolezza della propria patria, misurandola con le grandi metropoli e opprimendo con un raffronto ingiusto il meritato valore delle proprie cose. Ma credetemi, dopo la vita di Vienna e Parigi, star qui è come trovarsi ai piombi. Vi compatisco, eccellenza, non posso darvi torto. Felice è invece la condizione di noi veneziani, che essendo per scarsa attitudine al viaggiare rimasti chiusi dentro le angustie di una dimensione domestica, ci crediamo padroni del mondo e non desideriamo gloria maggiore che starcene a casa nostra. Fortunati voi, io ci patisco invece. Me ne dolgo, eccellenza, ma non date la colpa solo alla città, voi siete ambasciatore. Questo è il punto. Lo so, per mia sventura, ma è proprio questo che non sopporto di Venezia. Ovunque in Europa un ambasciatore straniero può frequentare con giusta misura i patrizi del luogo. Ricordo le feste a Parigi in casa del residente d'Inghilterra con mezza nobiltà francese che gli scodinzolava attorno e potrei farvi 100 esempi. Solo qui, su quest'isola, un ambasciatore è costretto alla clausura come un eremita. Certo, la legge della nostra Repubblica è molto rigida, forse troppo, e ciascuno di noi rischia a frequentarvi di passare per spia al soldo di una potenza straniera. Ecco perché mi vedete soltanto in villeggiatura, conte carissimo, ed inverno in maschera. E poi diciamo la verità, la mia povera casa è così piccola e sempre così mal ridotta che un inquisitore si metterebbe a ridere all'idea che l'impero si avvalga del povero conte Diedo per le sue trame segrete. Per questo non avete nulla da temere, conte caro, vi difenderei con tutti i mezzi se provassero a togliermi anche quel poco di conversazione che mi resta in questo sepolcro. A proposito di piccoli svaghi, oggi se tutto va bene dovrei avere una parziale compensazione del dispiacere di aver lasciato le gioie di Mestre. Ditemi. Dovete sapere che da qualche tempo sono in trattative con l'abate canonici per convincerlo a vendermi una buona parte della sua famosa collezione. Lo conoscete? So solo che mi basterebbe avere un decimo delle sue sostanze per raddrizzare la mia casata e questi gesuiti... Lasciamo perdere. Gente così a Parigi sarebbe impensabile. A proposito di gesuiti, vi ricordate quell'altro galantuomo della Abate Boni, quello che frequentava la mia casa anni addietro? L'ho visto solo due volte, ma mi perdonerete, eccellenza, se vi dico che non l'ho mai potuto soffrire. Non lo dite a me. Mi vellicò e mi corteggiò con ogni mezzo. Genovese come me, mi volle dedicare un suo opuscoletto pedante che vi confesso di non aver neanche aperto, e finalmente l'ho preso in casa mia con un buono stipendio per fargli l'inventario, per fargli far fare l'inventario della mia biblioteca. Ebbene, alla soppressione dell'ordine sparì con la scusa di sentirsi mal sicuro. Poveretto, pensai io, e sapete tempo dopo come si era attrezzato il povero abatino spaventato? Esisteva in Venezia una fabbrica di antichità veneziane, segretissime. Un orefice, chiamato Meneghetti, ne lavorava la parte metallica. Altri vergava gli scritti sopra pergamene. E l'abate Mauro Boni, gesuita, uomo di molto ingegno, prestava loro la materia. Vi erano tre raccoglitori e generosi di anticaglie, veneziani, tutti e tre patrizi, Lorenzo Giustinian, Gian Domenico Tiepolo, Teodoro Correr, che lautamente pagavano i pretesi cimeli. La cosa andò tanto oltre che si fabbricarono monete, pergamene, lamine di piombo con caratteri incisi. Il Boni, autore delle ciurmerie, suggeriva al Meneghetti che le eseguiva le più minute frodi per dare il carattere di antichità vera ai lavori. Canaglia da forca! Lo dicevo che non mi piaceva quel prete. L'hanno arrestato, spero. Ma che? È riuscito a fuggire, credo, a Napoli, dove gode di buona protezione. E voi dopo questa bella esperienza volete per caso un altro gesuita oggi? Caro mio, la ragion di Stato lo esige, lo stato della mia collezione di manoscritti. Il canonici ha un'indole irrequieta, compra, vende, accumula e poi cede, e adesso è nel momento buono per dar via tutto, perché sembra che abbia un gran bisogno di batter cassa. Se è così, eccellenza, vi auguro di cuore di concludere. La conversazione dei due gentiluomini fu interrotta dalle grida che provenivano da fuori. La barca aveva superato la metà del tratto di laguna che separa Venezia dalla terraferma. Si cominciava a vedere l'isoletta di San Secondo, quel ciuffo di verdura tondo e disabitato che annuncia al viaggiatore che Venezia è ormai vicina. Proprio da dietro l'isola sbucò fuori una barca con sei uomini a bordo. Non vi fu dubbio che si stesse dirigendo a gran voga proprio verso la gondola dell'ambasciatore. «Volà, fermatevi! Chi siete voi altri? Provveditori sondazzi!» Vi ordiniamo di fermarvi. Dobbiamo perquisire la barca. Non è possibile. Qui a bordo c'è Sua Eccellenza l'ambasciatore imperiale e un nobiluomo. Fate largo. È così che rispondete alla legge, razza di insolenti, la pagherete cara. I sei sbirri si lanciarono remando furiosamente verso la gondola, che iniziò a navigare cambiando continuamente rotta per non essere raggiunta. Le grida e gli insulti squarciavano l'immane silenzio che regnava sulla laguna e risuonavano come ingigantiti da quel nulla fatto di aria e acqua. Per qualche minuto la gondola riuscì a fuggire, ma sei uomini vogavano più velocemente di quattro e il carosello terminò con l'abbordaggio degli sbirri che saltarono come furie sulla gondola, iniziarono a bastonare i marinai a colpo di remo con una forza e una voluttà che doveva essergli familiare. La gondola rollava con una tale agitazione che pareva rovesciarsi. Tre dei gondolieri caddero feriti, mentre il quarto si riparava la terra, la testa gridando pietà. I due passeggeri furono fatti uscire dalla cabina e minacciati coi fucili. «Avanti, dite che siete. Avete bagagli, tirate fuori tutto quel che avete». «Vi stiate sbagliando grossolanamente, signori. Io sono il conte Giacomo Durazzo, ambasciatore delle loro maestà imperiali, e questo è il conte Girolamo Diedo. Il vostro governo vi dovrà delle spiegazioni serie per questo disgustoso incidente. Temo che voi avrete in futuro occasione per deplorare la vostra condotta». I sei sbirri si guardarono smarriti. Forse i gondolieri avevano detto il vero. Non erano i soliti passeggeri da spennare. In genere funzionava, si spaventava il viaggiatore con la scusa dei dazi da pagare o di qualche regola infranta, si minacciava di sequestrargli denaro e bagagli, dopodiché si chiudeva un occhio dietro a una lauta mancia. Ma se quello era davvero l'ambasciatore dell'imperatore, la frittata era fatta. Sulla prua della gondola i tre feriti intanto si lamentavano sotto al sole, chi perdendo sangue dalla bocca e chi dalla testa. Poche storie, gridò il capo degli sbirri fingendo d'aver ragione. Proseguite pure per questa volta, non vi sequestreremo i vostri averi, ma imparate ad avere più rispetto della milizia. Credo che questi poveri uomini abbiano imparato la vostra lezione, ma anche voi avrete qualcosa da imparare quando avrò avvertito il senato della vostra bella impresa, disse con rabbia Durazzo, stando eretto e guardando negli occhi il capo degli sbirri, mentre i compari stavano affrettandosi a ripartire. Avevano tutti un'improvvisa fretta di scendere da quella gondola e tornarsene dietro all'isoletta per discutere su come uscire da questo guaio e attendere la prossima barca di gonzi da spennare. Mentre gli sbirri si allontanavano tanto velocemente quanto erano arrivati, sulla gondola i due nobiluomini prestarono soccorso ai feriti come poterono, tamponando il sangue coi fazzoletti. L'unico gondoliere rimasto in piedi riprese faticosamente a remare verso l'imbarcadero la bocca di Cannaregio. Giunto a Palazzo Loredan, Durazzo salì ai suoi appartamenti come una furia, scansando servitori e masticando spezzoni improperi. Il segretario lo raggiunse, spaventato, correndogli dietro per le scale. «Eccellenza, cosa è successo? Prepara carta e penna. Deve saperlo, tutta Europa deve saperlo. Ah, ma non finisce così!» «Eccellenza, ma avete le mani sporche di sangue? Siete ferito?» «Io sto bene, altri non sono stati bene. Altri ancora staranno malissimo. E toglimi questa giacca, che ora me la strappo da addosso.» «Subito, signore. Ehi, di là portate acqua e asciugamani per sua eccellenza. Eccellenza, perdonate, capisco che non sia il momento. Ma in anticamera c'è l'abate Canonici che vi aspetta da un quarto d'ora. Che devo dire?» «Al diavolo l'abate. Adesso voi scrivete le lettere che vi detto, dopodiché vedrò l'abate.» In pochi minuti partirono lettere per il senato veneziano. Alcuni procuratori, avvocati e patrizi veneti, le cancelliere d'Austria e Francia. Intanto Ernestine era arrivata in palazzo e aveva saputo dai servi qualche cenno dell'avventura. Spalancò le porte dell'appartamento di suo marito, che sbatterono rimbalzando al muro come una fucilata. Lui per un pelo non ebbe un infarto e lei, senza chiedergli come stesse, si mise a gridare come un'ossessa che era uno scandalo intollerabile, che un affronto simile che un ambasciatore di sua altezza imperiale, che un'onta del genere che a Vienna sì l'avrebbero sentita, che era una vergogna, che la sua famiglia non avrebbe potuto mai sopportare, che lui avrebbe dovuto fargliela pagare cara, che questi veneziani e via così sempre, senza prender fiato, assumendo in volto le più interessanti sfumature del rosso pompeiano. Il tutto in tedesco, anzi in viennese. Ricordava molto quel giorno di 4 anni addietro, in cui fece una scenata simile nel chiosco del monastero di San Giorgio perché un frate gli si parò innanzi per non farle sorpassare la zona di clausura. Le grida di Ernestine si erano sentite fino a Malamocco e c'erano volute settimane di lettere e pazienti richiami diplomatici di suo marito per sopire le reazioni scatenate da quell'incidente. Non c'è dubbio che Ernestine portasse assai bene il suo nome di famiglia, quell'Ungand che si può tradurre come impietoso, unito per di più al lupo bianco del Weidenwolf. Giacomo, tolto un iniziale blocco atrio-ventricolare di primo grado per lo spavento, restò imperturbabile a scrivere, aspettando che finissero i circa 5 minuti d'ordinanza che servivano a Ernestine per esaurire la mitraglia di parole e ritrovare quel suo delizioso naturale pallore. Dopodiché le disse con pacatezza: «Ma certo, mia cara, però adesso vai, che ho visite.» Le 6 lettere che aveva dettato il carosello di grida della moglie erano bastate a fargli sbollire tutta la rabbia accumulata. Adesso poteva dedicarsi con animo rasserenato al suo svago preferito. C'è chi affoga la noia nel gioco, chi nelle feste, altri ancora nei viaggi, i più disperati nel vino e nella crapula. Non erano cose da lui. Il teatro, che era stato a Vienna e a Parigi il suo autentico regno, gli dava a Venezia ben poca soddisfazione. Come poteva proprio lui, che era stato il dominus della musica europea, che aveva riformato l'opera italiana, che aveva lanciato il fenomeno Gluck, che veniva chiamato conte della musica, trovare i divertenti i soliti drammi demodé che si mettevano in scena a Venezia con mezzi per lo più modesti e con musica incollata alla tradizione? L'unico che si salvava era ancora il Teatro di San Benedetto, che produceva spettacoli piacevoli come le opere di Traetta, uno dei pochi autori italiani che Giacomo amava. E infatti al San Benedetto lui e Ernestine non perdevano mai una serata, fosse anche un ballo, assetati di teatro come erano. Ma era ben poca cosa rispetto a quel che era abituato a godere prima di arrivare in laguna. Così si era fatto costruire un delizioso teatrino nella sua villa di Mestre, dove giocava a fare il General Spectacle Director di campagna. Piccole gioie con tanta noia intorno. Fu proprio la noia a fargli nascere la passione che lo salvò dalla noia. Collezionare manoscritti, libri, disegni e stampe. Non si può immaginare quante soddisfazioni possono dare questi oggetti inanimati e polverosi a chi li ama. Chi inizia a provarne piacere finisce poi per diventarne schiavo, maniaco, ma è ripagato da gioie e eccitazioni quasi infantili, inimmaginabili dai non iniziati. Al pensiero di riprendere il suo svago preferito, tutte le tensioni di quella mattinata orribile svanirono e riacquistò improvvisamente il buon umore. Fate accomodare l'abate. Canonici si palesò senza oltrepassare l'uscio del salone e piegandosi in un inchino così profondo da sfiorare il tappeto con il naso. Alle sue spalle l'anziano e magrissimo servitore Pasquale portava a fatica un borsone di pelle che lo curvava più di quanto non fosse già gobbo. «Son gioie, son privilegi, son onori questi che un povero abate come me non può sperare di meritare. Che può un povero prete di provincia davanti alla potenza dell'aquila imperiale? Né credo possa vostra eccellenza degnarsi di...» «Basta, basta, abate caro, tronchiamo le cerimonie e passate avanti. Sono io che vi ringrazio di esservi preso il disturbo di venire fin qua. E mi scuso per l'incomodo del ritardo, ma se vi raccontassi l'avventura che mi è capitata mi salirebbe di nuovo la bile, tanto bizzarra e sgradevole. Per cui veniamo subito in argomento.» Durazzo odiava i salame lecchi spagnoleschi e ampollosi d'altri tempi e si accorse di aver pronunciato l'ultima frase con palese insofferenza. Ma certo, ambasciatore caro, anch'io sono nemico degli arzigogoli. Veniamo al nostro amato argomento. Sì, veniamo, sorrise l'abate, mostrando i pochi incisivi gialli rimasti. Due servitori in livrea, sincroni come soldati alla parata, servirono di sedi damascati due ospiti, che manavano un lieve olezzo di carne bagnato. Durazzo li osservò sedersi davanti a lui, restando sprofondato nella sua poltrona, mentre gli angoli della bocca gli si piegavano inavvertitamente all'ingiù. Appena sistemato a sedere, Canonici provò a parlare, ma il conte gli troncò le parole in gola. «E così, caro abate, avete deciso di vendere buona parte della vostra collezione? Me ne rallegro, ma bisognerà capire meglio cosa contiene perché io possa manifestarvi il mio interesse.» Canonici si voltò di scatto alla sua destra e disse soltanto «Pasquale!» Il vecchio servo si rianimò di colpo e presa da una spare con i lacci della borsa, tirando e tremolando finché, anziché scioglierli, vi aggiunse altri nodi. Canonici lo guardava con odio, mentre il disgraziato sudava e tremava, sempre più in preda al panico. Infine gli strappò la borsa di mano e, sciogliendo con stizza i lacci, ne strasse due grossi volumi in quarto. Bisbigliò un'oscura minaccia al servo e, sorridendovi schiesamente all'ambasciatore, gli porse i tomi con profondo inchino. Durazzo si mise a sfogliarli con attenzione, senza dir nulla, per due lunghissimi minuti nei quali si sentiva soltanto la bocca ciabatta di Pasquale biascicare e deglutire. A un certo punto l'ambasciatore esclamò: «Ma voi possedete tutte le opere di Antonio Vivaldi?» Canonici si sentì morire. «Ma come? In mezzo a quel florilegio di meraviglie doveva proprio andare a buttar l'occhio sopra quelle fetenzie.» «Sì, conte caro carissimo, ma vedete, mi capitarono per caso nell'ascito del povero senatore Soranzo, e io che ci vuol fare? Sì, lo so che sono opere io me le ricordo come opere bellissime», troncò Durazzo senza ascoltarlo. L'abate si morse la lingua mentre lui intanto si era acceso. «Ero molto giovane quando venni qua a Venezia, mi pare fosse il 1734, e andai al teatro Sant'Angelo ad ascoltare l'opera del vecchio Vivaldi. Lo ricordo come se fosse adesso. Era l'Olimpiade, sui versi dell'abate Metastadio. Sì. Sui versi dell'abate Metastasio, un capolavoro di musica che mi procurò un vero e proprio entusiasmo, come usano dire i francesi. Certo, oggi sono cose completamente fuori moda e sarebbero impossibili da riproporre al nostro pubblico, ma bisogna dire che Vivaldi di talento ne aveva da vendere. Anche il principe von Kaunitz, con cui ho avuto l'onore di lavorare a lungo, mi raccontava di aver assistito a un concerto di Vivaldi alla Pietà e ne rimase assai impressionato. In seguito ho avuto l'onore di essere chiamato a dirigere tutti gli spettacoli di Vienna, ma vi assicuro che sono pochi i compositori di mia conoscenza che hanno quella mano felice, specie nella musica teatrale. Sapevate che il grande Gluck, il nostro maggior nome, si lasciò ispirare dal concerto che l'estate di Vivaldi per comporre... Sapevate che il grande Gluck, il nostro maggior nome, si lasciò ispirare dal concerto dell'estate di Vivaldi per comporre il suo ballo delle furie del Don Juan? Canonici faceva sì col capo, fingendo di seguire, ma lui il teatro non lo frequentava e fondamentalmente della musica non gli importava un fico. Certo, sì, il Don Juan, come no, totalmente d'accordo con voi, conte carissimo, era proprio quello che stavo per dirvi. Pensate che Vivaldi era il mio compositore favorito in gioventù e non sapete quanta fatica abbia fatto per cercare di strappare questi tesori ai nipoti del povero Soranzo, che me li fecero pagare a peso d'oro. Mentre parlava, il sudore gli colava a fichi palloni da sotto la parrucca lungo il collo, andando a arricchire di nuove e interessanti note il bouquet armonico che lo circondava. Molto bene, la vostra collezione è cospicua e molto interessante. Diciamo che sono inclinato a rilevarla, almeno in parte. Ma non vi trovo elencati disegni o stampe? Ne avete? Poche coserelle, ambasciatore mio, che là sopra non sono segnate, ma in compenso una bellissima collezione di lamine incise, bronzetti e monete antichissime che valgono... vi ringrazio, signora Abate, non mi interessano. Parliamo solo di libri e musica manoscritta al momento. Ho intenzione di venire a vedere i volumi presso di voi, prima di maturare l'offerta. Può andar bene venerdì prossimo? Ma, ambasciatore carissimo, me lo domandate? Voi siete padrone a tutte le ore del giorno e della notte. Voi anzi onorate la mia modesta dimora, che non è degna di riceversi. Benissimo, sarò da voi venerdì, allora quadragesima. Appena i due furono usciti, il segretario entrò nella sala, storse il naso, guardandosi intorno e domandò: «Signore, perdonate l'ardire, ma credo che il vostro cane abbia bisogno di una strigliata. Qua dentro si sente...» «Apri subito le finestre, questo non è il mio lampo, ma è un altro tipo di cane. Li hanno cacciati da mezza Europa, eppure eccoli ancora a trafficare», scrisse bene quella tagliola di Voltaire. «Les chiens qui Japon encore pourraient mordre, ma noi vedremo di avvantaggiarcene finché si mostrano mansueti». Thank you. ami, ami, ami.